Thank you. Francesa e Leporello, dove sei? Sono qui per mia disgrazia. E voi? Sono qui. Chi è morto? Voi o il vecchio? Che domanda da bestia, il vecchio! Bravo, tu imprese leggiadre! Sforzar la figlia da Mazzano il padre! L'ha voluto suo danno! Madonna, cosa ha voluto? Taci! Non mi seccare via me, cosa non vuoi qualche cosa anche tu! Non voluto, signor, non parlo più! Soccorrete, amici, il mio tesoro. Cercatemi, recatemi, qualche dol, qualche spirito, ma non tardate. Tananna, sposa. Amica, il duole estremo, la meschinella uccide. Già rinviene, datele nuovi aiuti. Padre mio! Celate, allontanate agli occhi suoi quell'oggetto d'orrore. Anima mia, consolati. Senti, guardami un solo istante, ti pare il caro amante che vive solo per te. Oh sì, perdo, io bene lo fa, ma mio le pene. Ma il padre mio dove? Il padre. Cara, la rimembranza amara. Hai sposo e padre in me. Oh, il padre mio dov'è? Lascia, oh cara, la rimembranza amara. Hai sposo. Hai sposo e padre in me. Ah, vedi cose poi, giura qui sangue ognor. La giuro, lo giuro agli occhi tuoi. Lo giuro. accendi la fede, cento, fanno di giallo di ancora, tu l'accendi la fede, cento, fanno di giallo. È importante, lo credo, è importantissimo, meglio ancora, finiscila, giurate di non andare in collera, lo giuro sul mio onore, pur che non parli del commendatore, siamo soli, lo vedo, nessun ci sente, via, vi posso dire tutto libamente, sì, dunque quando è così, caro signor patrone, la vita che menate è da piccone. Temerario in tal guisa! E il giuramento? Non si parli di giuramento, taci occhio! Non parlo più, non fiato, patron mio! Così saremo amici! Ora di un poco, sai tu perché son qui? Non ne so nulla, ma essendo l'alba chiara non sarebbe qualche nuova conquista. Io lo devo sapere per morla in lista. Voilà che sei un grand'uomo! Sappi che io sono innamorato d'una bella dama! E son certo che mama, la vidi, le parlai, meco il casino questa notte verrà. Zitto, mi pare sentir odor di femmina. Cospetto che odorato perfetto, all'aria mi par bella. E che occhio dico? Ritiriamoci un poco, scopriamo terreno. S'ha preso fuoco. Consolare il suo tormento, si consolò mille volte. di consolare il suo tormento. Si ne consolò 1800. Manco male che lo conosce bene. Via, cara donna Elvira, calmate quella collera. Sentite, lasciatemi parlare. Cosa puoi dire, d'opozion sinera? In casa mia entri fottivamente, a forza d'arte, di giuramenti e di lusinghe orribili, a sedurre il cuore mio. Mi l'amore crudele, mi richiami tua scusa. Potrei dire a Burgo sta lontani, m'abbandoni, mi fuggi e lasci in preda il rimorso e tal pianto, per pena forse questa mai cotanto. Pare un libro stampato, o in quanto questo ebbi le mie ragioni. È vero, e che ragioni forti? E quali sono, se non la tua perfidia, la leggerezza tua? Ma il giusto cielo volle che io ti trovassi per farle sue le mie vendette. E via, siate più ragionevole, mi pone a cimento costei. Se non credete al labbro mio, credete a questo galantuomo. Salvo il vero. E via, dille un poco. Che cosa devo dirle? Sì, sì, dille pur tutto. E ben fa presto. Madama, veramente in questo mondo, conscio sia quando fosse che il quadro non è tondo. Sciagurato così del mio dolor, gioco ti prendi a voi. Stelle, l'inico fuggì, misero me, dove, in qual parte? E lasciate che vada, non è merda che di lui ci pensiate. Il cenerato m'ingannò, e consolatevi, non siete voi, non foste, non sarete, né la prima, né l'ultima, guardate. Questo non picciol libro è tutto pieno dei nomi di sua belle, ogni villa, ogni borgo, ogni paese, è testimon di sue domesche imprese. Maravina, un catalogo questo, delle belle che amò il papo mio, un catalogo che io fatto. Osservate, leggete con me, osservate, leggete con me. In Italia 640, in Germania 231, 100 in Francia e Turchia 91, ma in Spagna. Ma in Spagna son già 1003. Quanta queste contadine, cameriere cittadine, ma contesse baronesse, ma che sanno principesse, e van donne, donne capo, donne forma, donne età, donne età, donne età. In Italia 640, in Germania 231, 100 in Francia, in Turchia 91, ma in Spagna, ma in Spagna sono già 1003. 1003. 1003. Papa queste contadine, cavaliere, cittadine, valcontesse, baronesse, marchesane, principesse, chi va ogni donna, ogni donna, ogni donna, ogni donna.